La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Pesce piccolo e pesce grande. Amici inseparabili. Una fiaba scritta e messa in voce da Gaetano Marino. Terza puntata. Crisponcello e Filippo, pesce piccolo e pesce grande, amici inseparabili, scivolavano tra dune di sabbia addormentate da secoli e secoli sui fondali. Si rincorrevano tra le rocce d'argento dei vulcani sommersi, circondate da pietre rovinose di civiltà scomparse. Pietre scure, avvolte dai coralli fiori di mare, tane nascondigli di migliaia e migliaia di animali coloratissimi. I due amici, come bimbi in festa all'uscita di scuola, si intrufolavano in ogni anfratto. Filippo era rapidissimo, come solo gli squali sanno fare. Era come se tagliasse l'acqua, mentre Crisponcello gli restava aggrappato sulla pinna dorsale. Giocavano, s'avventuravano dappertutto. Andavano matti per i vecchi relitti di mare, vascelli appartenuti ai grandi ammiragli o a capitani pirata, giganti di legno affondati dalle tempeste o spesso colpiti dalle cannonate nemiche, che se ne stavano lì, ora, addormentati. Alcuni ondeggiavano la prua o la poppa a causa delle forti correnti marine, mostrando qualche frammento di vela ancora fissata all'albero maestro. Parevano fantasmi giganti. Ognuno di quei relitti era dotato di labirinti sperduti, dove un'infinità di giardini di pesci dai colori infiniti aveva preso dimora. Spettatori in prima fila, divertiti ad ammirare il volo d'acqua di Filippo e Crisponcello. E finalmente, dopo ore e ore di lunghe nuotate, ai due venne una grande fame. Era giunta l'ora del pranzo. Era giunta dunque l'ora della grande alleanza. Come sempre, Crisponcello, che faceva la parte del piccolo e indifeso pescetto, scivolava solo soletto sui fondali del grande mare, così da diventare un buon bocconcino scoperto, preda per qualche pesce più grande di lui. E proprio quando qualche pesce spiava il suo passaggio dalla propria tana, Crisponcello, che faceva finta di non averlo visto, gli passava accanto, e quello drizzava le pinne, digrignava i denti, pregustando il facile pasto, finché decideva l'assalto contro Crisponcello. Ma, ahimè, quello era ignaro della trappola dei due amici. Un attimo prima che Crisponcello finisse in bocca allo sventurato, scattava Filippo, che se ne stava acquattato da qualche parte. Rapido come una saetta, piombava sullo sventurato pesce, che così da mangiatore si trasformò in pesce mangiato. Gnam, gnam e gnam. Il pasto era servito. A Crisponcello, invece, bastavano i resti della caccia. Intanto passò da quelle parti un succulento banco di meduse e lo squalo Filippo, che ne andava assai ghiotto, ne fece una scorpacciata. Terminato il pranzo, i due si lavarono i denti e ripulirono le squame nella giungla di alghe. Poi stesero le pinne, fecero un grande sbadiglio e, infine, si lasciarono andare. Era quello il solito piacevolissimo pisolino del dopo pranzo, finché dolcemente e profondamente i due amici si addormentarono. Trascorse qualche ora, quando provenne lontano un canto, una soave melodia che s'avvicinava lentamente verso i due amici, finché dal buio di una roccia grotta apparve una fanciulla pesce. Era straordinariamente piccola e bella, ma non era una sirena. Il suo viso era dolce e bianco come l'avorio, le branchie come una collana alta, fine e flessibile, simile a quelle collane che indossavano le fanciulle d'Africa, avvolgevano il suo collo, simile a quello di un cigno di mare. I capelli erano leggeri e non finivano più. Parevano trasparenti, quasi d'argento luminoso. La fanciulla di mare indossava una veste lunga, di porpora e turchino. Era simile al velo della nebbia che avvolge le grandi pianure della tundra del nord. Seguiva la fanciulla pesce un lungo esercito di ippocampi che parevano cavallucci di mare danzanti, piccoli guerrieri corazzati con lance, scudi ed elmi variopinti dai tre pennacchi. La fanciulla di mare si avvicinò sinuosa all'ignaro Filippo, il quale dormiva ancora profondamente. Osservò il suo viso dormiente, gli soffiò sugli occhi e poi pronunciò una magia. Tre stelline ho visto passare, erano tutte sul fondo del mare, una per me, l'altra per te, una la vuole il sogno del re. Fu a quel punto che Filippo aprì lentamente le palpebre degli occhi e sogni dei sogni, davanti a lui stava quel minuscolo viso di fanciulla pesce. «Ciao, benvenuto nella mia isola», disse la fanciulla di mare. Filippo rimase lì, batté le fauci come se cercasse le parole, ma le uniche che trovò furono: «Ciao, chi sei?» «Sono una jana.» «Una che?» «Una jana.» «Una jana.» «Una jana di mare, una fatina.» «Il mio nome è Carmillina e questa è la mia isola di sotto al mare, Cala di Luna. Vivo con le mie sorelle. Tu come ti chiami?» «Come mi chiamo?» «Sì, come ti chiami?» «Anzi, Filippo.» «Filippo?» «Filippo, sì.» «Oh, che strano! Un nome di terra per uno squalo, un predatore di mare. E perché strano?» «Filippos è colui che ama i cavalli.» «Che dovrei amare?» «I cavalli, quelli di terra.» «Non lo sapevo. Oh, è una vecchia storia che si raccontava tra gli antichi umani migliaia e migliaia di anni fa. Un cavallo. Sai, anch'io non mi sento quello che dovrei essere, disse Carmillina. Sarebbe? Beh, dicono che io sia una fata, ma ecco, io sarò pure una fata, non so, ma io non ho mai visto nulla di fatese in me. Non è nemmeno la bacchetta, non ce l'ho proprio, quella con la punta di stella, sai, né il cappellino a cono. Che c'è? Com'è? Hai detto qualcosa? Io? No, non credo. Come non credi? A me è sembrato che dicessi qualcosa. Non lo so, no, non credo di aver detto qualcosa. Ne sei sicuro? Ah, credo di no. Credi o non credi di aver detto qualcosa? Oh, certo, adesso, ecco, a volte sì, a volte no. Che vuol dire a volte sì, a volte no? Ma mi prendi in giro? Ma no, per niente. Scusa, devo avere ancora qualche problema con la digestione. Troppe meduse? No, ma no, ma che c'entrano le meduse? Le meduse sono pesanti, dovresti saperlo. Sì, hai ragione, forse ho esagerato con le meluse, cioè metuse, meduse, non riesco più a parlare, mi si incrociano i denti. Sei buffo, sai? Sono buffo, ma non voglio offenderti. Certo che no, non mi offendi affatto, anzi. Anzi cosa? Anzi è niente. Scommetto che ti sono simpatica. No, ci mancherebbe. Non mi permetterei. Cioè, se non ti sono simpatica? Ma sì, certo che mi sei simpatica. E sei anche tu davvero simpatico, sai? Grazie. E sei pure uno squalo. Buffo e simpatico. Uno squalo buffo e simpatico. Che bello. Nessuno me l'aveva ancora detto. Già. Se vuoi, puoi darmi un bacio, sai? Un bacino? Se ti va, ovviamente. Filippo tremava con tutte le pinne e ora il cuore gli ballava nel petto, quando, ad un tratto, sentì che qualcosa o qualcuno lo teneva legato, stretto stretto. La Jana Carmillina si allontanò velocissima da lui. Il suo viso si trasformò. Ora aveva migliaia di rughe che le solcavano il viso, mentre squame di bronzo la riempirono dappertutto. La voce cambiò. «Ora, i miei guerrieri ti hanno legato alla roccia di mare. Questa è la notte delle notti. Questa è la notte di Cala di Luna. Che vuoi dire? Non temere!» Non ti faremo alcun male. Poi chiamò Catalina, Adela, Altea, Chianna, Alinora, Carula, Aleni, Austina. Venite, sorelline. Le sorelle sbucarono ciascuna dalle proprie grotte di mare, ma non erano fanciulle di mare, erano ghiozzi. Sì, ghiozzi di mare, piccoli pesci, mostruosamente orribili e vivaci. Nemmeno il tempo di un battito di pinna, che subito quei ghiozzi si avventarono sul corpo di Filippo. Il sacrificio ebbe inizio. No, vi prego! Lasciatemi! Ma cosa? Così mi fate? Il saletico! No! Aiuto! Fermate i ghiozzi! Fermateli! Levatemi! Teneteli fermi! Ghiozzi! Non ce la posso fare! Non ce la posso fare! Quanti ghiozzi! Non resisto! Mi fanno il saletico! Vi prego! Filippo! Ehi! Filippo! Filippo, mi senti? Filippo, svegliati! Filippo sentì due schiaffi di pinna in faccia. Poi si svegliò e aprì gli occhi. «Filippo, amico mio, sono io! Crisponcello! Mi senti, Filippo?» «Crisponcello, amico mio, sono stato assalito da un branco di ghiozzi, terribili. Me li sentivo dappertutto, in ogni parte del corpo, ma non erano ghiozzi, erano Janas, piccole fatine, che sembrano... No, erano ghiozzi, stai tranquillo, Filippo. Era solo un sogno, un brutto sogno. Ora ci sono io, Crisponcello. Certo, andiamo subito via da qui». In silenzio i due amici, velocissimi, si avviarono lontano, scivolando nelle acque del grande mare, rapidi. Squalo Filippo era ancora stanco dal brutto sogno. Poi disse: «Senti, Crisponcello, tu mi sei amico, vero? E me lo chiedi? E allora devi farmi un favore. A quel che vuoi, amico Filippo, servo tuo. Prima me lo devi giurare. Giuralo. Va bene, lo giuro. Giurin giuretto, pinne sul petto, giura. Sì, che ti cadano le pinne, che mi cadano tutte le pinne. Bene, Crisponcello, ascolta. Quando la prossima volta io vorrò mangiare una medusa, sì, dicevo, prima che io la mangi, tu dovrai fare un nome. Un nome solo, d'accordo. E quale nome? Carmillina, d'accordo, Carmillina. D'accordo, farò il suo nome. Ricordati, quando io sto per mangiare una medusa, cioè prima che io la mangi, tu, ho capito, tu dovrai fare questo nome. Ma dillo bello forte, gridalo se puoi. Carmillina, va bene, Carmillina. Ricorda che l'hai giurato. Ho capito, certo. L'ho giurato, Carmillina. Andiamo. Ma dove andiamo? E che ne so. Andiamo e basta. Giusto, andiamo e basta. Bisogna andare per sapere dove si andrà. Che bello. Mi piace quando si parte all'avventura. Amico mio, chi parte sa da dove parte, ma non sa dove arriverà. Questa mi sa che l'ho già sentita, sai. Non importa, però è quello che vogliamo, no? Giusto, è quello che vogliamo. Allora si parte. Yuhuu! E finalmente piccolo pesce Crisponcello e grande pesce Filippo, amici inseparabili, partirono verso altre e nuove avventure. Avete ascoltato Parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net